Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sto passeggiando per il Foro Romano e osservo che questo luogo ha una caratteristica strepitosa. Oltre a essere un posto pieno di fascino per le memorie che raccoglie, ha la presenza di ben tre archi di trionfo. E allora ho deciso di avvicinarmi a tutti e tre. Comincerò con il più antico, l'arco di Tito. L'arco di Tito è caratteristico perché ha un solo fornice, cioè ha una sola grande arcata. Cosa servivano questi archi che si sono conservati, sono sopravvissuti a qualsiasi vicissitudine, soprattutto alla spoliazione, perché il Foro Romano, come tanti monumenti romani, è stato spogliato dai romani stessi, che l'hanno utilizzato per cava, per costruire le chiese medievali, le chiese rinascimentali e i palazzi barocchi. Bene, questo è rimasto intatto perché era stato inserito proprio nel Medioevo in una fortezza, per cui era diventata l'arco di trionfo, l'ingresso di questa fortezza, la fortezza dei Frangipani. L'arco di Tito è particolarmente impressionante perché venne ripulito e liberato dalle superfetazioni nell'Ottocento, ed ecco che noi possiamo ammirare soprattutto il partito architettonico e la scultura. Perché è importante? Perché si racconta che questo imperatore venne deificato, Tito venne deificato, quindi l'arco è dedicato a un dio, al dio Tito. E Tito aveva fatto un'impresa importantissima, aveva conquistato Gerusalemme e la Palestina. Infatti, se ci avviciniamo, all'interno dell'arco non solo si vede sulla cima la deificazione di Tito che viene portato in cielo da un'aquila, ma ai lati si vedono Tito stesso sul carro del trionfo, così entravano gli imperatori e passavano sotto l'arco, e dall'altra parte una struggente immagine. Si tratta del bottino di guerra. Noi vediamo i soldati che portano sulle spalle ciò che era stato rubato nel Tempio di Gerusalemme. Tra i tanti oggetti che vediamo, uno lo riconosciamo subito. Si tratta del celeberrimo candelabro a sette braccia che stava nel Tempio di Gerusalemme.